storie de no altri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera! Buonasera a tutti e ben ritrovati dopo la pausa estiva. E buonasera anche a te, caro Antonio, e ben ritrovato. Buonasera Gesi, ben ritrovata. Anche noi abbiamo fatto le vacanze come gli studenti, no? Ti ricordi che una volta si cominciava in ottobre la scuola? Il primo ottobre, per esattezza. Ecco, e noi ricominciamo il 2 ottobre. Allora, prima di cominciare vorrei anche dare un ben trovato al nostro regista, che è sempre gentile, premuroso e buono. Eh sì, bisogna dirle queste cose. Allora, adesso ti lascio la parola. Allora, un cordiale saluto di benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto. Quindi dopo la pausa estiva ritorniamo a voi con una nuova trasmissione che parlerà di tradizioni, cultura, curiosità dal Veneto, in particolare dalle province di Padova, Treviso e Venezia. Cercheremo di riportare alla memoria brandelli di un passato troppo frettolosamente dimenticato, alternando le tre province, mentre la quarta settimana avremo un argomento a sorpresa. La collocazione in palinsesto, anticipata alle ore 21, e l'ampliamento del bacino potenziale di utenza ci inducono a sperare in una risposta positiva. Attendiamo a tal proposito critiche, proposte, suggerimenti. In ogni caso, ricordate che da noi, come dicevano un tempo, un piatto de buonasera o trovare sempre. È giusto, vero, che esprimano o telefonicamente. Noi sollecitiamo argomenti naturalmente nuovi, eccetera. Sì, e anche critiche, e perché no? Anche così un po' di incoraggiamento. Certamente. Dai, cosa dici tu? Allora, noi ricordiamo nel frattempo il numero telefonico per gli SMS al 346 23 20 033. Il nostro indirizzo mail www.bluradioveneto.it, con possibilità di effettuare anche il download della trasmissione o ascoltare in streaming per i più tecnologici. Bene, allora entriamo nel vivo della trasmissione e incominciamo subito con una canzone proprio tipicamente veneta, ed è cantata dal coro degli Alpini, Me compare Giacometto. Tira cola, galo, galo, galo, e lo mette a cucinar. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Quando il canta, canta, canta, il verso il becco, becco, becco, che fa proprio, proprio, proprio innamorare. Bene, torniamo in studio e ci ha raggiunto il primo ospite, che è il dottor Antonio Basso, che ci parlerà della storia di Treviso. Caro dottore, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Grazie di aver accettato di partecipare a queste nostre trasmissioni nelle quali parleremo di Treviso, anzi lei parlerà di Treviso. Benissimo, allora le diamo il microfono, è tutto suo. E grazie. Parlare della storia di Treviso è, non sarebbe un compito mio, io sono soltanto un curioso che ha visitato quello che hanno scritto gli altri, perciò esula dalla mia competenza professionale, dalla mia formazione accademica, il fatto di parlare di storia, però qualcuno ha ritenuto che io potessi dire qualcosa sulla storia di Treviso. Ebbene, Treviso è una città caratterizzata dalla presenza del fiume Sile e di altre acque. Credo che non si possa parlare di storia, ma non solo di storia di Treviso, della storia di nessuna località, se non si fa un po' di luce, se non si getta un po' di luce sul territorio nel quale si muove la storia di un determinato popolo. E come non si può immaginare che al polo nord ci siano delle condizioni di vita come all'equatore, cioè la geografia ha una importanza notevole per illuminare la storia. Allora torniamo alla presenza del fiume, perché l'acqua è un elemento che per Treviso, ma non solo per Treviso, ha costituito sempre un elemento determinante. Non si può, in linea generale, se prendiamo la chimica ad esempio, parlare di vita se non esiste l'acqua. Un vecchio detto diceva che corpora non agunt nisi soluta, cioè l'acqua permette quelle reazioni chimiche che modificano i fenomeni. E anche, ne parlavamo prima, la ricerca che l'astronomia sta facendo sui pianeti per vedere se possono avere delle forme di vita, si incentra soprattutto nel cercare se c'è dell'acqua. D'altra parte, la storia delle civiltà si è sempre sviluppata dove c'era l'acqua. Acqua, pensiamo alla civiltà mediterranea, a quello che ha rappresentato per esempio il Nilo per l'Egitto. E così via. E altrettanto dovrà dirsi per Treviso. Quest'acqua, pensate che il Sile è un fiume di risorgiva che è il più lungo d'Europa. Noi abbiamo, così dalla letteratura ricordiamo, per esempio le fonti del Clitunno, che è un fiume che nasce anch'esso in mezzo alla campagna. Anche per Treviso c'è questa specie di miracolo che l'acqua sorge in mezzo alle campagne. Allora la domanda che ci si pone è: da dove viene quest'acqua? Ecco, qui bisogna fare un passo indietro, ma di millenni, per arrivare a capire questo fenomeno. Le montagne che sono state catapultate dal fondo del mare in cima a 3-4 mila metri di altezza conservano le testimonianze, attraverso i reperti fossili, di presenze di vita, le conchiglie per esempio che troviamo in cima alla Marmolada, eccetera. Quindi c'è stata questa esplosione, questa eruzione di terra verso l'alto, se non che nel tempo l'acqua ha cominciato con i fenomeni piovaschi, con le precipitazioni, a infiltrarsi in mezzo alle rocce, e il gelo poi le ha sbriciolate. E allora ci sono state delle cadute di massi che si sono rotolati e sono stati poi sospinti dalle correnti fino a diventare sempre più piccoli e a venir portati così lungo le valli, costituendo nel fondo del letto dei fiumi la base sui quali l'acqua scorre. E così è stato per esempio per il Piave, che ha trascinato dall'alto delle montagne lungo le vallate, ha trascinato ghiaia e detriti sempre più sottili, che sono le argille. I detriti più grossi si sono fermati prima, quelli più sottili sono stati spinti più avanti. E allora, se noi immaginiamo per esempio la stretta del Piave che c'è tra Cornuda Evidor, a quel punto l'acqua del Piave dilagava sulla pianura e i ciottoli si sono sparsi in tutta la pianura e l'acqua vi correva sopra, costituendo pericolo di alluvioni anche in territori molto lontani dall'attuale corso del Piave. Pensate che in epoca comunale uno dei primi compiti che aveva il podestà di Treviso eletto, designato al suo incarico, doveva essere quello di andare a controllare la tenuta degli argini vicino a Crocetta, in modo che le acque non scendessero. Per esempio il paese di Ciano deve il suo nome a un'espressione latina, cilianus, cioè argine, e questo per contenere, perché l'acqua potesse girare a nord del Montello, all'uscita dalla zona del Montello un altro argine c'era ed era Supercilianus, che poi è diventato Spresiano. E così più avanti c'era questo cingione, anche Oscendon, che deve il suo nome appunto alla presenza di argini, e poi Zenson, che non è altro che la trasformazione fonetica di Sendon. Sono tutti termini che ci stanno ad indicare la presenza di argini per il contenimento delle acque, perché non irrompessero nella pianura. Però nella pianura, prima di tutti questi interventi umani, le acque scendevano e inondavano il territorio nel quale noi ci troviamo, cioè il territorio di Treviso. Ma non solo c'erano acque di superficie, quelle che si vedono comunemente, ma l'acqua si infiltrava anche in mezzo alle ghiaie, per cui oltre al corso superficiale del fiume vi era un corso sotterraneo di acque che arrivava verso la pianura e fino al punto da incontrare, da battere contro quel muro impermeabile costituito dai detriti più sottili, cioè dalle argille. A quel punto l'acqua, battendo contro questi strati profondi del terreno, emerge e viene fuori, e quindi si ha questo fenomeno di queste sorgenti in mezzo alla campagna. Naturalmente nelle zone a monte ci sono poi sovrapposti alle ghiaie detriti erbacei, per cui sono cresciuti alberi, e le ghiaie si trovano a strati molto più profondi. Ma se noi andiamo nella zona a nord della città di Treviso, fino ad arrivare anche proprio al Piave, chi ha avuto esperienza di scavi ha trovato sotto le ghiaie. E questo è un fenomeno che è importante, perché nel tempo l'intervento dell'uomo ha imparato, scavando, a trovare queste ghiaie e ha trasformato, attraverso i forni, le ghiaie in calce, che è un elemento fondamentale per la costruzione degli edifici. Come altrettanto importante è il rinvenimento a valle di argille che hanno dato luogo all'origine delle fornaci per la fabbricazione di laterizi, che assieme ai sassi, ai ciottoli, sono stati elementi costruttivi della nostra civiltà. Pensate per esempio a quei muriccioli che si vedono ancora in giro per le campagne, che sono costituiti da allineamenti di ciottoli alternati con dei corsi di mattoni, sì, che si trovavano. Però ecco, la calce e i laterizi sono stati elementi che hanno caratterizzato l'archeologia industriale delle nostre parti. Però le fornaci di calce sono a nord del Sile e le fornaci di argilla sono al sud del Sile. E soprattutto le fornaci di argilla, le fornaci di laterizi, si sono sviluppati a valle di Treviso, lungo il corso del Sile. E questo perché la trasportabilità dei materiali prodotti avveniva, non c'erano i camion una volta, avveniva lungo il fiume e quindi i barconi per raggiungere la laguna. Venezia è stata fatta con i mattoni fabbricati lungo il Sile, con i burci famosi, famosi barconi da carico, ma i problemi della navigazione ne parleremo un'altra sera. E questi sono elementi abbastanza importanti, ecco, per capire come si è sviluppata la vita e l'industria dalle nostre parti. Certo. Dovremmo ancora ricordare dell'acqua un altro elemento importante, la forza motrice che l'acqua rappresenta, perché prima dell'invenzione dei motori elettrici, prima dell'invenzione di motori a vapore, le industrie, gli opifici che avevano bisogno di movimento erano attivati dalle ruote idrauliche che erano mosse appunto dai corsi d'acqua, e questi ci sono sia in riva al Sile ma anche e soprattutto lungo quegli affluenti del Sile, affluenti di sinistra soprattutto, che sono distribuiti in tutto il nostro territorio. Dovremmo infine ricordare che quest'acqua che sorge dalla campagna, che quindi prima di arrivare a Treviso ha un percorso molto breve, perché sono una quindicina di chilometri che deve percorrere, non era inquinata una volta, perché non c'erano le industrie e non c'erano le attività umane che potessero inquinare, quindi arrivava a Treviso, tanto che queste sorgenti o fontanazzi, anche come venivano chiamati, anzi Fazio degli Uberti le chiamava fontane, e dice nella descrizione di un suo viaggio lungo il territorio veneto, che incontrano a un certo momento Treviso che dichiara fontane tutta ride, cioè non sono le fontane che noi siamo abituati a vedere lungo le strade, sì, ma sono questi fontanili, queste sorgenti di acque chiare, le definisce, e la chiarezza è proprio la limpidità di queste acque che consentiva, quando si è cominciato a fabbricare la carta, di poterla produrre, perché non so se a tutti è noto che adesso la carta viene prodotta, non parliamo della plastica, di tutti quei materiali moderni, ma veniva soprattutto prodotta con gli alberi, ma anticamente era prodotta con gli stracci che venivano macinati, lacerati, ridotti in poltiglia e quindi trasformati in carta. Però gli stracci erano di tutti i colori, bisognava sbiancarli, bisognava. E questo era un effetto che veniva ottenuto con il lavaggio di questa poltiglia, diciamo, di questo materiale, grazie alla presenza di acqua pulita. Ma naturalmente l'acqua che ne usciva era un'acqua non pulita, perché era già un primo inquinamento che veniva prodotto, tanto che gli statuti comunali proibirono l'insediamento di cartiere e anche di tintorie all'interno della città. Dovevano essere insediate a valle, in modo da lasciare a Treviso ancora un'acqua pulita per le sue necessità. Potremmo infine dell'acqua ricordare la funzione che ha avuto nella difesa della città, perché dalla città romana a quella medievale, a quella rinascimentale progettata da Fra Giocondo, il perimetro murario si è delineato individuando i corsi d'acqua che dovevano essere nell'immediato esterno della mura, in modo che ci fosse una doppia difesa, cioè all'esterno il fossato, all'interno il muro. Credo che questi siano così sommariamente detti, così alla buona come ci riesco, elementi di importanza per capire poi la storia della nostra città. È stato molto esauriente. Difatti io conosco Ciano del Montello e non credevo che il suo nome derivasse da argini. Eh sì. ma anche Espresiano. È anche molto interessante. E diciamo che la carta allora lo facevano, adesso la fanno con la cellulosa, non degli altri, sì. Beh, ma anche con la cellulosa, la carta più pregiata è fatta sì di cellulosa, ma io ho trovato stranamente in Romania un museo della carta e era raffigurata una carta geografica nella quale erano rappresentate le prime cartiere d'Europa e oltre ad Amalfi, per esempio, che è famosa, oltre a Fabriano, c'era Treviso indicata. Si sono lì, lontani da noi, ricordati della nostra città, quindi vuol dire che effettivamente aveva una fama. Insediamenti importanti, giustamente. Sì. Chissà com'era la carta fatta con gli stracci, come veniva? Dunque, la carta veniva fatta in questa maniera, gli stracci venivano ridotti a poltiglie e poi messi ad essiccare. Queste poltiglie venivano messe come su una specie di graticcio e lì veniva messa ad essiccare e premuta, sì. Spremendo nell'acqua rimaneva questo foglio molto irregolare che veniva messo ad asciugare all'aria, per cui le cartiere avevano tutte quante al piano superiore delle finestre strette e alte. Bene, adesso abbiamo parlato di storia, però ho sentito che in questi giorni c'è un avvenimento del quale penso che lei possa parlarci, dottore. Sì, è soltanto un annuncio che io do, mi pare che in fatto di storia sia importante questa biennale di storia, che ogni due anni, siamo ormai alla terza edizione, viene proposta a tutti i cittadini con delle rassegne che si svolgeranno a Palazzo dei 300 dall'8 al 23 ottobre. E con una serie di conferenze, di proiezioni e di altre manifestazioni che saranno collegate e di cui certamente la stampa nei prossimi giorni ne darà notizia. Benissimo, grazie dottore. Grazie dottore. Grazie, dottore. E alla prossima. Grazie. Alla prossima. E buonasera. Buonasera a lei, buonasera a chi ci ha ascoltato. Ecco, ringraziamo il dottor Tony Basso, che ha fatto un bellissimo intervento, e adesso andiamo con un altro brano musicale. Le luci spente delle due di notte, passa un barbone con le scarpe rotte, la notte qui non è come a Milano, a Roma sempre pieno di casino, tra quasi un'ora arriva la nazione, un ferroviere fischia una canzone, una signora senza suo marito, la guardo bene solo un travestito, Firenze Santa Maria Novella sogna, povera ancora di vergogna, sembra lo specchio della sua città. Firenze Santa Maria Novella almeno mi fa sentire un po' sereno e il portafoglio non mi ruberà. I primi pendolari la mattina, quest'anno è forte la tua Fiorentina, la colazione con i bomboloni e guai a chi parla male di Antonioni. Raggio di sole arriva il nuovo giorno, gente che va giurandoti un ritorno, perché a Firenze sulla mia parola non vedi niente in una volta sola. Firenze Santa Maria Novella è festa, per lui che va, per lei che resta, per un amore che ritornerà. Firenze Santa Maria Novella scusa, spero di farti una sorpresa, quando la mia canzone sentirai. lo specchio della sua città. Firenze, Santa Maria Novella, almeno mi fa sentire un po' sereno, e il portafoglio non mi ruberà. Firenze, Santa Maria Novella, è festa per lui che va, per lei che resta, per un amore che ritorna. E rientriamo in studio con un altro ospite che ringraziamo per la sua disponibilità. È un'icona della cultura trevigiana, Giorgio Fantin, il quale ci parlerà delle tradizioni di questo mese. Buonasera. Buonasera, Pietro. Buonasera Giorgio Fantin. E benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuto. Grazie della presentazione senza icona. Di cosa ci parlerà stasera? Ma ne parliamo del mese di ottobre, che da sabato è ormai il primo di ottobre, perciò è meglio parlare di questo mese, di questo che può, come questo si svolge questo mese nelle nostre tradizioni. Bene, a lei la parola. A me la parola. Allora, mio amico Bellò mi dice che a ottobre il sol si leva alle 6:37 e tramonta alle 17:35. Perciò, se ci accorgiamo già che giornate sono già diminuite, ormai la sera è già buio, e perciò rientriamo nell'ordine della, penso che sia anche il cambio orario, no, probabilmente alla fine di ottobre, sì, sì. Comunque, abbiamo tutto ottobre il 29 sì. Mi pare, ma quest'anno dal 28 al 29, 29 sì, esatto. O dal 29 al 30, perciò ecco che è un altro mese ancora dell'ora solare. Il mese di ottobre credo che si possa parlare logicamente della vendemmia. La vendemmia quest'anno è stata anche anticipata in molte parti, hanno avuto di buoni raccolti. Io dove sono andato invece le abbiamo fatto invece di 4-5 ore, ne ho fatto solo due, perché c'è una parte di vigneto nuovo, sono 5.000 metri quadrati da un amico, alcuna casa che hanno un amico, ora si va tutta la comitiva, le famiglie, si mangia e si beve, c'è anche lo spuntino alle ore 10. E si poi rinnova la tradizione. Esattamente. Pane e salame. Pane e salame, sorpresa, pane e formaggio, tutto quanto che cosa là. E poi a mezzogiorno si pranza tutti insieme, insomma. È bellissimo perché è una raccolta di famiglie, si parla, si scherza, si canta anche soprattutto, ed è simpatico. Meno male, perché ormai oggi non si canta più. Almeno voi cantate. Credo, beh, sa, ormai la musica è fatta dei dischi, mi odio i dischi, ne ho 2-3 a 78 giri, ma se ricordi anche quelli, ma non c'è più gli anni 60, i nostri, che è sempre bello, che solo canzoni straniere anche alla radio. Beh, così li ascolta qui da me. Le ascolto volentieri, sì. Ecco, la vendemmia che si faceva una volta era fatta di fatica, anche di fatica, cioè era fatta di estemporaneità del contadino, perché a volte non riusciva a vinificare in bene. Racconto una cosa a Musestri: una volta su un cliente aveva comprato 25.000 metri di terra, questo contadino mi ha dato da bere del vino coi fiori. Oh. E ora mica faccio. Ma grave errore. Sì, perché mi dà questo vino? Perché è il mio vino buono. E ora raccontano che il vino rosso se lo tenevano i contadini perché era buono, e il vino bianco lo vendevano a Treviso, in città. E ora caseato beveva solo vino bianco, perché in città bisognava bere vino bianco, invece il rosso è meglio. E ora mi ho detto: ascolta, io se ottengo questo vino e fiore, mi vado a casa mia in centro Treviso o vado a bere un bel bicchiere di vin bon, ma che sia senza fiore, tutto l'ase. Una volta il contadino non lavava bene le botti, non faceva tanta cosa, le metteva sul fosso, tante cose. Adesso per fortuna il vino è pulito, costa anche molto di più soldi, ma però è pulito. La qualità è diversa. E la qualità è migliorata. Sì, decisamente. Quello che abbiamo raccolto noi, mi scusi, abbiamo raccolto noi un poco tempo, in due ore, abbiamo fatto un vino che sembra sia di 14 gradi. Qua. Addirittura. Un merlotto di 14 gradi, addirittura, pensa. Però è buono proprio. E se beva il mosto. Prima, ecco, appunto, a proposito di mosto. Noi a Mantova col mosto fanno una specie di crema, di... Non so se anche da voi lo fanno. No, no, lo facciamo, no, col sangue di maiale noi. Il baldon? Il baldon, mm, il famoso baldon, mescolare il sangue di maiale veloce, veloce, e facciamo il baldon, sì, mm, aggiungendo magari qualche volta l'uvetta o qualche pinolo, insomma, mm, ma il baldon nostrano. Col vino noi lo beviamo tutto il nostro mosto che riusciamo a portarci a casa, insomma. Sì, invece da noi fanno questa specie di budino, di quello di posso budino chiamarlo, che lo chiamano sugol. Il mantovano? No, no, no, no, non è una nostra tradizione, no. Ok, mi scusi, la parentesi. Niente, e questa qui è la nostra vendemmia, insomma, che facciamo. E qui nel Veneto ci sono tante belle aziende e tanto buon vino anche. Io non sono un fanatico del prosecco, perché è troppo già lavorato, già depurato. Ora, qua in pescheria, in cose, inferiore beviamo il vino col fondo, perché c'è ancora del fondo, così, oppure il vino prosecco semplice, naturale, insomma, e non spumantizzato, insomma. Io sono una fanatica del prosecco. Fa bene, le porterò una bella bottiglia, mi dice, le porto sempre in macchina e le porto per i cantieri, perché sicurezza cantiere, dico, bevetelo dopo, a fine lavoro, fine giornata, ma così ci facciamo conoscere con gli operai che non sono capaci di mettersi i caschi ancora, non sono capaci di essere tutti in regola, sempre, c'è sempre da osservare, sempre da guardare, insomma. Ah, quindi questa è la vendemmia. Questa, okay, è la vendemmia, ma sì. Ma in antichità è sempre stata così, più o meno, no? Più fatica, logicamente, come diceva lei, perché... Ma, io ho fatto una piccola, i primi di settembre a San Gregorio, ho fatto una sagrita degli osti. Ah. E ho presentato sui muri dell'ex cinema Edison la festa dell'uva, cioè la storia dell'uva, che partiva dagli egiziani. Ma cioè, folavano il vino coi piedi praticamente. Adesso, anche adesso, mia cugina ne ha poche vite, la stringe con le mani e beviamo un vino, quello che viene fuori. Qui era abitudine un era tempo abitudine, di farlo con i piedi. Io mi ricordo piedi, che quando ero ragazza, bambina, proprio lo usavano i piedi. Ma mi ricordo anche io sono salito, ho pestato i piedi e mi sono divertito, ci si divertiva, era anche, certo, qui una certa festa. Adesso ci sono cantine, e non faccio nomi perché ho trovato il proprietario l'altro giorno, e dico, da quando sono venuto nella sua cantina nuova non ho più bevuto il suo vino. Perché mi fai? Perché non ho visto neanche una botte di legno. E ho visto arrivare da una tramoggia dall'alto, da una botola, il vino, foglie, bastoni, chissà cosa anche altro, mi ho aggiunto qualcosa di puzzolente, scherzando, comunque scherzo. E va su delle botti di cilindro, dei serbatoi di cilindro, e viene fuori un vino che non si sa neanche cosa che sia, loro solo sanno cos'è, né vino bianco né vino rosso, già imbottigliato, fanno la catena delle bottiglie e basta. Diventa fuori un ibrido. Non so. Non ben identificato. Vino. Va bene, allora proseguiamo con adesso, ci parla delle fiere? Sì. Parlo delle fiere perché il mese di ottobre noi abbiamo la festa millenaria di San Luca, le feste di San Luca, le fiere a Prato Fiera. Eh sì, è vero. Cioè, era il nostro, da ragazzi, era il nostro momento di libertà e di gioco. Ci portava anche la famiglia, tagliavano i capelli a zero perché era il tempo di scuola, per i peoci magari, mm-hmm, ma si tagliavano quasi a zero e ci portavano alle fiere tutto un pomeriggio e montavamo dove che ci dicevano di montare, salire e andare. Ecco, prima di proseguire nell'argomento che è di estremo interesse, direi di fare un altro intermezzo musicale. Sentiamo questo pezzo musicale. Facciamo un omaggio musicale al nostro architetto. Bene, allora ci ascoltiamo Massimo Ranieri, L'amore un attimo. Bene. Ciao, perdono amore mio, stasera scrivo a te l'ultima lettera. Ne ho strappate mille, sai, perché ti lascerò, ma non so dirtelo. dicevi nascerà. Chi dividerci potrà? L'amore un attimo, l'amore un attimo, però la vita è un vento forte più di noi. Passato un mese già, non mi difendo più dalla malinconia. Il mio solo amico qui è questo treno che va verso casa mia. Mai dicevi nascerà. Chi dividerci potrà? L'amore un attimo, l'amore un attimo, però la vita è un vento forte più di me. Di nuovo in studio con il nostro architetto Giorgio Fonti. A lei la parola. Sì, continuo ancora allora sulle fiere di San Luca, perché questa fiera millenaria raccoglieva un tempo anche tutta la festa del bestiame, di animali o meno, e fra cui le oche, che poi ne parleremo di seguito. Mentre adesso è un grande festival di giostre e di luci, anche troppo adesso forse, ma al tempo nostro noi aspettavamo San Giuseppe, che andavamo a vedere gli aeroplani che passavano, andavamo a piedi a San Giuseppe, che adesso è impensabile. E a fiera la famiglia, andavamo tutta la famiglia da piccoli e ci portavano un pomeriggio intero alla fiera. La fiera... Cosa c'era? C'era i bussolotti da tirare con le palle da colpire. E ora papà ne colpiva 5 su 6, magari o 6 su 6, ma noi ne prendevamo una, ma ce la faceva fare. Ci faceva provare a tirare. Dopo lui con 3 colpi, con il martello, 3 colpi doveva battere un chiodo, altri impensabili, altre cose. Ma più avanti, quando eravamo tutta la compagnia degli amici, che avevamo 18-20 anni e facevamo le ferie anche di sera, era il nostro sport battere con martello un chiodo, 3 colpi un chiodo. Adesso nessuno lo fa, i ragazzi non hanno questi gusti, non hanno questo semplice gusto di cameratismo, ma di lotta singola fra i compagni. Manca questo fatto. E poi c'erano le giostre, c'erano gli agondoetta, le gabbie, le gabbie, una cosa eccezionale il discorso. Soltanto che ha cominciato dopo gli specchi, o c'era una volta una bella ragazza, Tamara, e erano altri... che aggiungevamo Patana, ma andavamo a vedere, stavamo tutti assieme vicini per vedere. C'era il taboga, che mi sembra sia sparito perché era troppo pericoloso. Però le giostre hanno sempre richiamato tante persone. a lunedì era il giorno delle serve, era la serve militari, e noi scendevamo perché chiudevano lunedì una volta. Insomma. Adesso invece non è più così. Adesso, adesso sei sempre, siamo tutti servi, siamo tutti militari, sì, siamo sì. tutti gentili o civili o incivili anche, insomma. Però anche, ecco, mi dice una cosa adesso, no? Da anni il comune fa fare nelle scuole una mostra di disegni delle elementari, tutte le scuole elementari che partecipano. E noi, Cobellò, con Di Chiara e sottoscritto, facciamo i giurati, cioè scegliamo i premi, scegliamo i premi. Da ogni scuola ha tanti premi, non so, 2, 3, 5 di qualche cosa. E l'anno scorso per la prima volta sono andato anche ad assistere alla premiazione, bellissima, tutta una tenda sotto tutte le scuole, bambini, genitori, danno di regali, c'era logicamente Gentilini e Michelon che si sono divertiti a premiare questi ragazzi, ma mi sono divertito anch'io, la prima volta vedevo tutta questa vivacità delle, cioè, le elementari, i primi bambini, e poi avevano buoni per andare alle giostre gratuite e avanti col Cristo. I bambini sono, chissà, bambini sono sempre motivo di allegria, di sempre di vita, ecco, e di farli cantare, come lei diceva, che nessuno canta più. I bambini cantano ancora. Sì, sì, sì. Allora, ti fermiamo ancora un momento per un'altra canzone. E questa volta ci ascoltiamo Una storia disonesta, cantata da Stefano Rosso. Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100, io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così, che bello! Due amici, una chitarra e lo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate, la gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno, l'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fai barattoli uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello, non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no, e questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi Eccoci di nuovo in studio, e la parola ancora a lei, architetto, che ci parlerà. Che io proseguo ancora sulle fiere, il Prato Fiera è vicino al nostro Sile, sempre simpatico, da lì ogni tanto si parte col barcone dei fratelli di Casale sul Sile, dell'Istevanato, ed è bellissimo, ma il Sile mi ricorda le oche. Da noi nel Prato Fiera vendevano certamente le oche, centralmente noi ci sono quadri, fotografie che vendevano gli animali, insomma, adesso ormai sono solo giostre e zucchero filato, penso mi dica i caramei, il mandorato e anche delle cose. I goiosessi. I goiosessi. Mangia anche l'oca però durante le ferie. Però c'è anche lo stand, ecco, volevo dire, c'è l'oca rosta. Noi per eccellenza è l'oca rosta. Col saeno o senza? Col saeno. Quindi mangiate l'oca. Cioè col sedano naturalmente. Col sedano, sì. L'oca col sedano? Col sedano. Come contorno? Come contorno, perché asciuga un po' il grasso del sugo dell'oca. Ho capito, insomma. Ho capito. E il sedano mi piace che sia bello alto, grosso, se lo mastico, non condirlo, insomma, si mangia così. Ah, niente, a crudo. A crudo, sì. Pulito e tagliato a pezzi grandi, insomma. Io pensavo si mangiassero solo i folpi col sedano. I folpi è un'altra roba, se mangia solo folpi, una volta ne ho mangiato 15, tutte le facciamo. Mamma mia, per carità, vabbè, dai, parliamo dell'oca. No, parla dell'oca perché a Treviso c'è questa, anche chiamavo questa fiera millenaria, c'erano anche gli animali, e perciò alla fiera si mangiava, è rimasto questo ricordo, e sono sicuro che a un tempo le facevano che correre queste oche, oppure scappavano via per il campo e andavano a raccoglierle. E io a Treviso, attraverso la congrega per il recupero delle tradizioni trevigiane, ho riportato in auge, chiamiamolo così, questa corsa delle oche, che non si chiama corsa, è impropria, perché l'oca è così intelligente che fa quello che vuole. Cammina, si ferma, schitta, torna in drio, va sotto le macchine. L'ho vista a Milano, io sono già 15 anni loro che la fanno, io sono 6 anni che la faccio, e la fanno correre sulle strade 419, perché è il ristorante del Paradiso, 19 Paradiso, ed è una grande festa, con i vari tabardi vestiti da contadini, bellissimo, 100 occhi partecipano, 100 persone di più anche. Però. Con nomi famosi, mi pare. Con no, nomi famosi anche, sì. Da cioè, noi, in che senso? No, una ogni volta, oca ha un nome? Ma sì, una volta sì. Per esempio, ha vinto l'Oca Levinsky. Allora... Sì, appunto, danno nomi anche abbastanza connessi all'attualità. Connessi all'attualità. Diciamo, ecco, sì. Il discorso, io ho cercato di farle sulle mura, che è un teatro o un percorso ideale, ma mi sono accorto che man mano si divertivano i bambini, perché i bambini ancora non conoscono gli animali. Porto ogni anno degli animali da Varago, un allevatore a Varago, porta delle gru, di pulcini, di tutti gli animali di questo mondo. Gli oggetti misteriosi. Misteriosi, e per fare avvicinare i bambini, farli conoscere, parlarne. E io metto i bambini dentro lo stallo dell'oca, intanto che le portano, perché hanno paura, no, svolazzano via, e si devono apprezzare, a conoscere, perché noi siamo mai abituati ai cani e gatti. Pensi che... E gli altri animali, il coniglio, che si mangiava una volta buono, ma viveva con noi in casa. Anche adesso si mangia buono, basta trovarlo. Non si trova? Sì, io lo trovo. Bene, anch'io lo trovo, ma non si trova da negozio ormai. Sa, architetto, parlando di oca, mi viene in mente che una volta, penso che qui da voi, che si facevano i materassi con le piume d'oca. Si facevano. Io ogni anno porto delle piume di oca al pittore di Nito, perché fa dei disegni da scrivere, per scrivere la china grossa e sottile che viene fuori la penna d'oca. La penna d'oca si fa i piumini, dell'oca non si butta via niente. Niente, come il niente. Maiale. È vero. Come il maiale. Come il maiale, neanche le unghie, perché anche quelle là le impastano e fanno... tante cose, insomma, perché... Ecco, a tal proposito mi viene in mente un vecchio proverbio contadino, che dove si diceva: ognun il suo mestier e nane a pasto coe oche, cioè sì, un po' dispregiativo, diciamo, ma forse ma se invece vogliamo. A pasco coe oche, a pasco coe oche, okay, a pasco, andavano solo le ragazze, le accompagnavo, e a tempo di guerra le incoconavo con imbuto, una cosa, con le ortiche, una tradizione. Andavo a prendere le ortiche, le mettevo con imbuto e le incoconavo con bastone. E dopo occhio mi correva dire quando che passavo vicino. Alimentazione forzata. Perché facevano più, diventavano più grassi, insomma. Adesso chiamerebbero e al tempo da erbe ortiche, non si dava grano perché il grano lo mangiavamo noi, adesso danno grano, capisci? Mi correva Dio. E qui faccio una corsa dalle oche sulla mura, che è una festa, e poi andiamo a mangiare l'oca rosta alla sera, ma che non sei qui che corre, insomma. Una ragazza di 3 anni, 4 anni che ha vinto una delle prime volte, si è tenuta l'oca, credo che l'abbia ancora viva, ancora adesso, insomma, se l'è tenuta. Però sono importanti queste oche, vero? Si mangia, mia moglie prepara... Anche il sugo? No, prepara il sugo dall'oca, sì, perché taglia grosso, ma prepara un patè eccezionale. Ah, sì, il patè d'oca. Sì, con una specie di cosa alla francese, che è un'incognita, non posso... Foie gras. Sì. E ora facciamo tante ciotoline e ce lo mangiamo a casa tranquillamente, insomma, io vado a fegato. Che poi le oche effettivamente si ricordano quelle capitoline anche, quindi hanno avuto molti meriti. Certo. Ma il foie gras dicono che è molto buono. Sì. Comunque, diciamo che insomma sembrerebbe sei un'oca. No, invece l'oca molto... è molto intelligente, corre quando che vuole correre e si ferma quando che vuole ora, fa quelle che vogliono loro. Quindi un carattere indipendente. Da noi con questa bacchettina che è una... si può battere di fianco e dietro, mai toccare l'oca perché si viene squalificati. Ecco. Bene. Caro architetto, intanto lei resta qui con noi. Io vorrei, desidererei, diciamo, leggere una poesia del nostro amico poeta Emilio Gallina, che descrive molto bene l'autunno trevigiano a Treviso. E che mi ha regalato un libro, perciò lo saluto volentieri. Saluto, sì, anche da parte mia, Emilio. Appunto. E allora, siccome ho trovato questa poesia che mi sembra adattissima appunto per la trasmissione, anche per la stagione, vorrei leggere Autunno a Treviso di Emilio Gallina. Ipocastani in parvenza di processione lungo la cinta antica che d'intorno corre Treviso hanno fremiti di ultimo verde e gaiezza di aurei colori. Scolorano lenti tra prime nebbie, melanconia d'autunno. Azzurrità di cielo hanno perduto garruli voli. L'inverno incombe e l'aleto suo lungo vie e piazze odora di fumo e caldarroste. Invito al vino novello, torbido ancora e dolce come segreta promessa d'amore. Il ruotar pigro di esuli gabbiani sopra cerulei canali ed il sile, grasso d'acque e di nebbie basse, annuncia altra stagione che spegne con uggiosi manti di nebbia, ira di vento e piogge battenti, terse luminosità estive e ricordi. Bravissima, splendido, Emilio ha una capacità particolare di descrivere molto bene. Tonalità intercalare bellissima. Abbiamo, direi, la possibilità anche di un'ultima canzone per rallegrare, per completare il nostro, sì, la nostra trasmissione. Dobbiamo parlare dei castagni, perché certamente c'è molto dei castagni, del vinovo. Questo lo faremo una prossima volta. Ottobre che sei da fare. C'è molto, molto da parlare. Allora, come ultima canzone abbiamo Johnny Dorelli che canta Solo più che mai, che è la versione italiana di Antonio... The Strangers in the Night, cantato dal grande Frank Sinatra, okay, naturalmente. A voi. Solo più che mai, in una notte che non mi dirà se avrò un domani e che solo decidere potrà. Solo più che mai, senza ricordi che non trovo più, nel mio passato, un passato che più niente mi darà. Cerco intorno a me un nuovo volto che vorrei potesse dire parole nuove che mi portino così dove io vorrei, in un mondo che non c'è ma è vissuto sempre in me. Son solo più che mai in una notte che non se avrò un domani e che solo lei di me deciderà. Vorrei trovarmi, sai perché? Son solo più che mai, senza ricordi che non trovo più. Nel mio passato, un passato che è triste quanto me. Ecco, siamo di nuovo in studio. Per l'ultimo piccolo round, architetto. L'ultimo round sarebbe da bere un bicchiere di vino. Non c'è. Ma di vino a ottobre, ma lo berremo più avanti. Lo facciamo virtuale. Qualcosa. Però okay. Del tempo delle fiere, cioè, si andava anche a mangiare castagne. Cioè era una, E vino. E dopo era i folpi. Che era quel caim di folpi, ora era Casa d'Oro, che te dava quello più piccolo, quello mediano e quello più grosso. Il più grosso il papà lo tagliava a fette e gli eravamo quattro pezzi. Invece il più piccolo si mangiava io, anche quello mediano si mangiava io tutto intero, insomma, e no, ti dava un pezzettino. Però cioè, era una festa di divertimento nelle giostre. E semplice e sano. Semplice, e dopo anche appunto era questo discorso di poter mangiare qualche cosa e se si divertiva, se veniva a casa magari con, anche con premio, che sia quel pesce rosso, che se arrivava a prendere qualcosa, è un momento sempre bello e ogni anno uno dei pochi, uno diciamo, pochi momenti ecco, pochi, anche per questo sì. Forse più apprezzato sì, diciamo, senz'altro anche. le fiere esibico. Dopo ottobre che ha tante cose da riempire. Riempire i frutti, se puoi parlare, i pomicacchi, mi adesso che ne go. Le nespole, ma i pomigranai, che va sì. Buonissimo. Go dell'uva fragola naturale, che mi ha portato un amico qua. Neanche lui non ha fatto niente, mi ha portato già due cassette. Due cassette sono state mangiate in due settimane, una settimana. A casa mia, così dolcissima. Si fa un buon fragolino? Ma io l'ho mangiata tutta uva, allora, perciò niente fragolino sì, l'ho mangiata tutta uva. È buonissimo il fragolino. Sì. È l'unico col Clinton, che io Clinton ho, che una volta, ho poche bottiglie di Clinton io da Biancade, che mi è morto questo contadino cliente. E che ne godo ancora e mi beverò adesso proprio qualcosa. Il champagne. Champagne, erano vini che davano quell'impressione, io lo ricordo ancora nella mia infanzia. E Logà, ecco, Bellotto mi regalava 5 litri una volta, de champagne, non, perché si chiamava champagne, champagne l'uva insomma, no? Da Oderzo, vicino al cammin di Oderzo, lo portava. E ero dolce, mi obbligava sempre mia suocera. Ah, beh, non così. E così se mancava, allora noi la ringraziamo, ormai abbiamo finito quasi l'ora, e noi la ringraziamo per il suo intervento. Grazie mille, è stato un intervento rinfrescante. Molto bello, intervento sì. Ma io ho raccontato cose mie forse, ma insomma... No, questa è la tradizione in cui ci siamo riconosciuti, almeno io sicuramente della mia infanzia. Sì. E poi novembre racconteremo di novembre. Va bene. Va bene. Sì. Grazie mille, architetto. Grazie di nuovo. Alla prossima. Antonio? Niente, noi ringraziamo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, e sperando di aver fatto cosa gradita, diciamo, con il taglio della nuova trasmissione, vi diamo appuntamento alla prossima settimana dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Domenica sera, naturalmente. Anch'io vi saluto come sempre, un abbraccio affettuoso e il mio solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.